Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Partiamo da una domanda stasera e la domanda è la seguente: perché le pale eoliche girano così lentamente? È un quesito che molti si fanno e allora ne approfittiamo per aprire la puntata di oggi che è dedicata al grande eolico. Come vedrete nella risposta a questa domanda c'è molto di quanto bisogna sapere su questa fonte rinnovabile che ad oggi è di gran lunga la più matura tra quelle disponibili sul mercato, tanto che l'anno scorso in tutto il mondo è stata installata più potenza eolica che non a gas. Che insomma la dice lunga appunto sul livello di maturità della tecnologia. Ne parliamo con il professor Ennio Macchi del Politecnico di Milano, esperto di sistemi di conversione dell'energia. Buonasera Macchi. Buonasera. Allora senta, io le giro questa domanda un po' popolare forse, ma da quale possiamo partire. Perché le pale eoliche girano lentamente, ammesso che sia vero che girino poi così lentamente? Sì, allora la premessa è che siccome la densità di potenza del vento è molto bassa, perché l'aria è un fluido leggero, servono delle grandi dimensioni per fare delle potenze relativamente piccole. E questo porta a dimensioni delle pale molto grandi e a grandi diametri degli aeromotori. Quindi, qualche numero per capirsi? Quanto è alto una grande pale eolica? Le grandi turbine eoliche oggi possono arrivare a più di 100 metri di diametro e sono installate su una torre che è alta almeno 100 metri, quindi parliamo di macchine gigantesche. Per fare delle potenze diciamo di 4-5 megawatt, le più grandi, che sono potenze grandi ma risibili rispetto, che so, a una turbina a vapore che può averne molte centinaia con dimensioni enormemente più piccole. Enormemente più piccole. Ecco, però questo ci dice anche che siccome la pala, non ci pensiamo, ma è di 100 metri, vuol dire che la circonferenza insomma è di 300 e passa metri, quindi non è che può girare tanto in fretta, perché si muoverebbe a velocità mostruose altrimenti in realtà. Diciamo che più la pala è grande, più deve girare lentamente in termini di numero di giri, e quindi i giri continuano a diminuire più grande diventa la pala. Ecco, certo, insomma, quindi c'è un aspetto, come dire, un po' illusorio, appunto abbiamo detto che non gira poi così lentamente. Poi c'è questo aspetto progettuale che vorrei appunto approfondire un po' con lei, perché comunque si è anche arrivati a capire, questo anche un po' per prova ed errore come capita, che effettivamente è meglio che queste pale girino più o meno sempre alla stessa velocità. Ci spieghi un po'. Dunque, la potenza del vento va genericamente con il cubo della velocità del vento stesso. Questo significa che esiste una velocità minima del vento per cui la turbina è in grado di cominciare a produrre una minima potenza. Dopodiché, se si aumenta la velocità, la potenza cresce e cresce, come dicevamo, molto rapidamente perché va col cubo. Quindi quando la velocità del vento è il doppio della velocità minima, la potenza è già 8 volte, certo. E così via. Quando si arriva a una certa velocità, che è la velocità nominale, diciamo, della turbina, si arriva alla potenza nominale, che è la potenza per cui la turbina è progettata, nel senso che a velocità superiori darebbe una potenza eccessiva e si romperebbe il motore e la parte elettrica sarebbe sottodimensionata, per cui da quel punto in poi, dalla velocità nominale in poi, si ruotano le pale della macchina in modo da che la macchina dia meno potenza di quella che potrebbe teoricamente e quindi dà esattamente la potenza nominale. Quando si va a velocità molto più elevate c'è un pericolo di un'incolumità della macchina stessa e a quel punto la macchina si ferma, si mette, come si usa dire, in bandiera, in modo che smette di girare e sta in una posizione di sicurezza. Quindi può capitare che quando il vento è molto forte si vedano queste pale ferme sostanzialmente. Assolutamente sì. D'accordo, certo. Per la loro stessa sopravvivenza, come dire. Certo. Senta, i costi, abbiamo detto che ormai insomma questa è una tecnologia matura, quali sono i costi dell'eolico e quali sono le prossime sfide? Dipende naturalmente dal sito, perché la stessa turbina, certo, può dare potenze diverse nei diversi siti, però come ordine di grandezza diciamo che sotto i 2000 euro al kilowatt si riesce a fare tutto quello che serve per avere un campo eolico funzionante. Chiave in mano, diciamo. Chiave in mano. A quella cifra lì. E a questa cifra è un ottimo affare produrre energia eolica. Tempi di payback sono di 4 o 5 anni, no? Sì, dipende dal valore del certificato verde o dell'incentivazione, diciamo. È chiaro, attualmente. Alla parte elettrica, però certamente è un ottimo affare. Ok, ecco, adesso invece qual è la prossima direzione di sviluppo? Perché sulla terra stanno arrivando, insomma, sulla terraferma anche in Italia l'anno scorso è stato un più 30% di mercato dell'eolico. Sì, l'Appennino comincia a essere pieno. Esatto. Ecco, il passo avanti, che è di più difficile, è quello delle turbine cosiddette offshore, cioè nel mare. Certo. Il vantaggio è che nel mare di solito il vento è più costante e anche più elevato, quindi la producibilità a pari turbina tende a crescere. Si può produrre più energia con la stessa potenza delle turbine, mettiamo. Esattamente, perché c'è più vento, è più costante. I difetti sono, da un lato, che l'ambiente marino è sempre un ambiente difficile in termini di corrosione, di materiali, eccetera, eccetera. E poi c'è che l'energia deve essere trasportata, quindi ci vogliono dei cavi sottomarini che portino la corrente da dove è generata alla rete elettrica. Va bene, grazie mille Macchi. Prego, arrivederci. Bene, grazie per averci seguito fin qui. Domani parliamo di pompe di calore a gas. Buona serata.